Al via la 32esima edizione di Angelica, il festival internazionale dedicato alla musica di ricerca. In programma quest'anno 12 concerti dal 7 maggio al 4 giugno. Per parlare di questa nuova edizione del festival siamo in collegamento telefonico con Massimo Simonini, uno dei fondatori del festival Angelica e il direttore artistico. Massimo, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio, buongiorno, buon tutto. Partirà il 7 maggio la nuova edizione del Festival Internazionale di Musica di Ricerca Angelica. Volevo iniziare innanzitutto chiedendole di raccontarci un po' di questa nuova edizione, di cosa ci sarà all'interno di questa nuova edizione. Beh, diciamo che ultimamente rischio di ripetermi spesso perché uso alcune parole che poi torno a usare in situazioni differenti, però mi piace dire uno dei motti degli ultimi anni è Angelica, la musica risponde. E poi per questa edizione mi sono fatto un viaggio, nel senso che ho parlato di Angelica panoramica, no? Come che uno sceglie una strada, parte per un viaggio che inizia il 7 maggio e finisce il 4 giugno e se possibile, perché capisco che non tutti vogliono o possono seguire tutti i concerti, e quindi prende questa strada panoramica per cui vede un lago, poi vede il mare distante, vede una montagna con la neve sopra, anche se è estate o se è primavera, insomma vede degli ambienti diversi che potremmo anche chiamare come degli ambienti sonori, che parlano di una musica diversa, che nello stesso contesto, cioè dello stesso festival, queste musiche assumono dei toni e dei significati diversi rispetto a quando le ascoltiamo nello stesso festival, non so se è un festival jazz o se è un festival blues o di rock, no? Quindi ci sono le variazioni del rock, le variazioni del blues, le variazioni del jazz. Qui tutte insieme acquistano dei significati diversi perché è come che svelano delle parti di esse che altrimenti potrebbero come non vedersi, e il fatto che il pubblico o chi segue la musica segue più di uno di questi concerti è come che venga da delle visioni così diverse o apparentemente distanti per chi è abituato poi ad ascoltare di più un genere musicale oppure non ha voglia di ascoltare altre cose, per chi certamente invece è abituato ad ascoltare un po' tutta la musica, quindi a seconda di come si sente ascolta più quella cosa o più quell'altra cosa, è più normale come tipo di ascolto. Per me, per dire che sono cresciuto ascoltando tutto, dalla musica etnica, dalle polifonie delle isole Salomone a Giovanna Marini, a Anthony Braxton, a Stockhausen, è chiaro che per me è un viaggio che viene abbastanza naturalmente, quindi è venuto naturalmente grazie ai curatori che hanno partecipato alla costruzione di questo programma, mi è venuto naturalmente accoglierli perché ci sono alcune cose che sono anche un po' più distanti da me, e il mio gusto, diciamo, personale o quello di cui ho più bisogno oggi potrebbe essere anche diverso di alcune cose che ci saranno, anche se evidentemente con tutta questa diversità si accende anche la curiosità per seguire il festival e per andare a sentire delle cose che altrimenti direi è difficile ascoltarle, ed è difficile ascoltarle appunto, come dicevo prima, nello stesso contesto. Lei prima parlava di viaggio, le chiedo anche quali saranno i protagonisti e le protagoniste di questo viaggio, quindi chi potremo ascoltare all'interno di questa nuova edizione del festival. Sono tutti i protagonisti, e seppure che qualcuno è sconosciuto, qualcuno è molto conosciuto, qualcuno è giovane e qualcuno invece ha, come il concerto di apertura, 88 anni come Christian Wolff, ed è una rarità averlo qui e presentare delle nuove composizioni in questa serata che è progettata in collaborazione con il Conservatorio di Bologna, e ci saranno Christian Wolff, Robin Skulkowski, Joy Baron, quella che abbiamo chiamato e che chiamiamo di tanto in tanto Angelica Orchestra, che è una formazione variabile che si prende la responsabilità di eseguire dei repertori suonatori, diciamo, molto particolari. In questo caso sono 7 chitarre elettriche, e quindi sarà, direi, molto interessante vedere questa miscela non solo di musicisti ma anche organici diversi. E questa è la prima serata, il 7 maggio. Poi andiamo in Brasile con Amaro Freitas, che per la prima volta in Italia presenta un piano solo, il 18 maggio, con Seabrook Trio, con Brandon Seabrook Cooper Moore, che si è inventato questo basso a una corda, e Gerard Claver. 20 maggio al Teatro Comunale di Modena con Orchestra Creativa dell'Emilia Romagna, che è un gruppo di musicisti che si sono riuniti in questo progetto che è sostenuto dalla legge musica della regione, e per la prima volta incontreranno Ernest Reisiger, violoncellista virtuoso e anche molto teatrale. Poi il 21 maggio, un'altra cosa di questa edizione di Angelica riguarda anche gli organici, che passano dal solo all'orchestra di 32 musicisti. Il 25 maggio abbiamo una serata di musica norvegese a cura di Luca Vitali, con piano solo che parte dalla musica folcloristica norvegese per farne una trascrizione per pianoforte, e poi un quartetto di Benedikt Maurseth, che presenterà le sue canzoni con l'ausilio di field recordings, anche di field recordings presi dalla natura, quindi il canto degli uccelli, i suoni dell'acqua, in un'originale composizioni che ci hanno sorpreso quando l'abbiamo ascoltata. E poi andiamo al 26 maggio, un concerto a cura di Walter Rovere con Susan Ciani, che è una pioniera della musica elettronica, o quello successivo, che è una residenza, quella dei Matmos, di 3 giorni, dove proveranno, anche per quello che sarà il loro tour mondiale che poi continua dopo Bologna, Londra e in giro per il mondo, lavoreranno insieme 3 giorni. Hanno chiamato questo lavoro Rumori fuori scena. Si parte dal campionamento, quindi anche dalla musica concreta ed elettronica, per costruire poi 2 momenti di concerti alle ore 19 e alle ore 22 del 29 maggio. 30 maggio, con le meraviglie del piccolo coro angelico, che lavoreranno con 3 ospiti anche quest'anno. Andiamo al 1 giugno con l'orchestra Tupulsan Marcel Duchamp, che è un gruppo di 12 musicisti agguerriti, direi. Il 3 giugno abbiamo Anthony Braxton Saxophone Quartet con Ingrid Lodbrok, James Fay e Chris Jonas. È una prima assoluta, è il primo concerto di questo tour mondiale che fa Anthony Braxton. Faremo anche una registrazione. È un momento importante perché non solo è un po' la prima del quartetto di sax di Anthony Braxton, ma ha lavorato in questi ultimi mesi su questo metodo di composizione che si chiama, in francese l'ha chiamato Lorrain. È un suo metodo che si è inventato, e oltre al quartetto di sax c'è l'elettronica di Anthony Braxton, che interagisce con i 4 sax. E poi il 4 giugno, ultimo concerto di questo 32esimo anno del festival, con On Seine, questa orchestra francese con 32 musicisti da Parigi, che presenteranno Programme Ocean di Eliane Radic di Jim O'Rourke, che sarà interessante perché è la prima volta che scrive per tanti musicisti e utilizzerà anche delle cose che ha messo su nastro. Quindi per orchestra e nastro. Massimo, io la ringrazio per essere stato così preciso e puntuale su ogni serata del festival, e chiaramente invito anche tutte e tutti a partecipare a questa nuova edizione, e anche un in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi.